signori, buona serata. Bueno, scusa, benissimo. Come si vede? Come si vede? Devo tirare qua. Che te vai a trabajar. A trabajar? A che te cobro entrada. Te va a pagar una sorpresa, signor.